Orfani come siamo dell'Oliva, non ci tocca altro che ringraziare di cuore Margherita e Iaia per esserci venuti in soccorso in questo momento di temporanea e contingente solitudine. Naturalmente il ringraziamento va anche a Walter per la consueta accorta e diligentissima regia. Rinnovando gli auguri a Carlo perché la settimana prossima sia nuovamente con noi, riestendo i ringraziamenti a tutti voi per l'attenzione, vi rinnovo anche ovviamente l'appuntamento a martedì prossimo. Grazie, buonasera a tutti.